Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buongiorno. In questo momento c'ho il filo che si è da tutte le parti impigliato, ma ne verremo a capo. E sono le 19 primi e 20 secondi da una salatissima Milano di primavera avanzata, dallo studio qui a Via Monterosa di questa grandissima azienda che piano piano si inizia da essere carponi a mettersi piano piano sui gomiti. Vedremo in studio con me, a salutarvi e ringraziarti dell'ascolto in diretta in podcast, Carlo Alberto Carnevale Maffè, e collegato con Skype, qualcuno della regia mi guarda, è collegato con Skype, ecco, sentite, grazie. E abbiamo con noi anche Mario, ciao Mario. Ciao, buona giornata a tutti. C'è sole anche lì? Non tanto, però la temperatura è alta. Ah, ecco, la nuvoletta di Fantozzi, questa volta non ce l'abbiamo né noi né voi. Allora, cari ascoltatori, come sempre, rapido riepilogo per consentirvi di immaginare se telefonare l'800 24 00 24 oppure no. Io mi auguro di sì, ovviamente. Di che cosa parliamo oggi? Scusate, colpo di tosse. Ecco, allora cominciamo con i voucher. Lo sapete, il governo pochi minuti dopo praticamente aver deciso che c'era il referendum ha deciso, insomma, la sua divisa maggioranza di spazzare via i referendum, che i due referendum residui della CGIL sul lavoro, visto che la Corte Costituzionale aveva disattivato giustamente il più temibile dal punto di vista del traino popolare, cioè quello sull'articolo 18. Dei due residui, quello forte era quello sui voucher, e il governo ha alzato bandiera bianca e ha fatto benissimo. Ecco, qui abbiamo un Bastian Contrari. Naturalmente io non la penso così, ho letto che anche Mario non la pensa così, ma noi avremo con noi Marta Fana, che conoscete, quindi noi parliamo con chi ha fatto campagna contro, perché è convinto che il voucher fosse uno strumento molto negativo. Sentiremo le vostre ragioni, sentiremo le ragioni di Marta Fana, e però chiamateci per dirci come la pensate. Io penso che le divisioni politiche post esplosione della leadership del PD, auguri al governo, io dico solo questo, perché è così sui voucher, ma è così sulla manovra, sulle nomine, quindi mi chiedo come faccio ad andare avanti, però punto interrogativo. Vedremo, tutte le opinioni sono legittime. Dopodiché noi ci occupiamo di un tema che ha dominato nella settimana politica, cioè, ma viste le precisazioni degli avvocati di Grillo su chi non risponde, più che su chi risponde, su chi non risponde al sito beppegrillo.it, che cosa bisogna dedurne come osservazione, al di là del merito della trasparenza e della democrazia all'interno dei 5 Stelle? C'è davvero un grande problema da affrontare sulla responsabilità dei siti e della comunicazione via internet? Leggi le varie proposte di legge di cui i partiti fanno una pila così nel loro deposito, introducendo meccanismi di controllo sempre più orwelliani, oppure no? Insomma, tentiamo di fare una riflessione su quello che è chiaro o non è chiaro delle norme sull'informazione in rete. Avremo con noi l'avvocato professor Giulio Neo Vigevani, che appunto si occupa di diritto della comunicazione, e tenteremo con lui di capire meglio di cosa si tratta. Poi un altro blocco dedicato alla crisi dell'Italia, l'ennesima, l'economia circolare di Vico, per così dire, e altri 2 miliardi e mezzo persi dal 2009 a oggi, perte record anche nel 2016, seppur ancora non del tutto formalizzata, perché poi bisogna ricapitalizzare, è un po' come la vicenda del sole. E quindi a quel punto la domanda: credete voi questa volta a un piano industriale che dice tagliamo i costi di 1 miliardo in 3 anni e aumentiamo le revenues del 30%, stante il tipo di flotta, stante tutti questi vincoli? Intanto ieri i sindacati hanno detto no, inizieranno a scioperare, perché oltre a 2000 esuberi, 2037, ci sono anche tagli fino al 30% e oltre delle retribuzioni per chi resta. Noi ne parleremo con il professor Ugo Arrigo, e poi chiuderemo con il nostro Renato Cifarelli. Oltre a questo, Mario, in settimana che dici, che ti ha colpito? Allora, io devo raccontare ancora una volta un fatto personale che però è veramente divertente. Nei giorni scorsi il postino mi ha lasciato uno dei famosi scontrini delle raccomandate inesitate, come si dice con un orrendo termine burocratico. Allora, visto che non ero a casa, sono andato all'ufficio postale a ritirare il contenuto e era una lettera raccomandata con avviso di ricevimento di Poste Italiane. Ora, in essa era contenuta l'informativa della avvenuta incorporazione di Postecom in Poste Italiane. Ora, a questo punto, il gran capo Esticazzi era interessatissimo a sapere come andava a finire. Qual è il punto? Che Postecom era la società che gestiva la PEC per conto di Poste Italiane. È stata, perché capita che io abbia una PEC con Poste Italiane, diciamo, non per altro. È stata incorporata in Poste Italiane e quindi hanno deciso non tanto di mandarmi una PEC per comunicarmi in questo notevole evento aziendale e adempiere all'obbligo di informativa e pubblicità, ma di farlo con una normalissima e molto old fashion raccomandata cartacea con avviso di ricevimento. Quindi, come notate, non ce la possiamo proprio fare, perché questo mi ricorda molto, no? Il fascicolo giudiziario telematico, che però necessita della copia di cortesia. Se poi per caso la copia di cortesia viene smarrita, quella cartacea, dal cancelliere o da chi per esso, la comunicazione telematica non serve assolutamente a nulla e bisogna rifare tutte le fotocopie del cartaceo. Quindi non ce la possiamo fare. Ma figurati, nel tuo caso poi era appunto, per così dire, una comunicazione di troppo. In questa settimana un ascoltatore mi ha mandato tutti i documenti di come circolari emesse dal Ministero della Sanità in questi mesi, in queste settimane, consentano, anzi dispongano, la comunicazione di tra ASL, tra aziende sanitarie ospedaliere, per l'adempimento di nuovi particolari compiti in relazione alla redazione dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, comunicando per fax. E naturalmente lui mi documenta come possibile mai che al Ministero non sappiano che per legge dal 2013 è fatto divieto alla pubblica amministrazione, per comunicazioni ufficiali come questo tipo, di usare il fax, citazione dell'articolo che modifica una norma preesistente del 2003, eccetera eccetera. E io gli ho detto: è evidente che lei ha ragione, è evidente che non lo sanno, ma lei avrà fatto presente una cosa. Le hanno risposto e la risposta è stata: no, non mi hanno risposto. Quindi, capito, lo Stato al suo interno dispone ancora di comunicare via fax, quando per legge quella roba lì non ha valenza ufficiale per una serie molto lunga di documenti di una certa rilevanza. Ecco, per dirla, l'abbiamo detta tutta. Vabbè, Oscar, invece devo darti una buona notizia e un'ottima notizia. Oh. La buona notizia è che la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca hanno chiesto l'intervento di ricapitalizzazione precauzionale. IPIE! Beh, diciamo, è una buona notizia che finalmente si prende atto della fine di lungo calvario e della sottomissione alle regole dell'Unione Bancaria Europea. Per me è un buon segnale di pragmatismo. Certamente ricordo che da queste trasmissioni lo abbiamo probabilmente ripetuto una dozzina di volte, che quella era la strada da prendere e che purtroppo l'intervento di Atlante mancava delle condizioni finanziarie e organizzative per cavarsela da solo. Adesso vedremo cosa farà, se vorrà sacrificare gli ultimi miliardi sull'altare di un orgoglio o se accetterà umilmente la strada di un percorso che prevede, ricordo, l'accollo delle perdite presenti e prevedibili ad azionisti e a obbligazionisti. Quindi vedremo, però almeno la strada è tracciata e speriamo che finalmente ci sia un territorio di dialogo. Certo che le illusioni di autonomismo veneto oggi si schiantano. La gloriosa finanza veneta, che ha 800 anni di storia con il credito mercantile della Serenissima Repubblica di Venezia, oggi ha la cenere sul capo. Invece l'ottima notizia, questa è la buona notizia, è che ieri quel satanasso di Urbano Cairo è riuscito a fare una roba. O è un miracolo o è un trucco. No, diciamo, che c'è differenza? Cioè, non ho capito la differenza. Ma adesso non mi creare problemi con gli ascoltatori credenti. Non essere così ateo, dai. No, ma parlavo di economia, ovviamente. Sì, su, sì, ragazzi, sì, ragazzi, sì, ma questo satanasso a cui va, mi scappello, devo dire la verità, è riuscito a rimettere in sesto in un anno una corazzata, no, ma... molto Potemkin. Ieri, signori, ieri abbiamo rivisto prima volta 3 timidissimi milioni di euro di profitto della grande corazzata. Ho capito, RCS. Ma venivano da un disastro. Da 170 quindi... milioni, se non sbaglio. Capisci, di perdite. Cioè, tra l'altro, in discesa, perché comunque i ricavi sono scesi del 6%, a parità di perimetro del 4%. Comunque sono, cioè, è comunque difficile mettere in sesto un'azienda quando comunque i tuoi ricavi stanno discendendo significativamente. Hai per... no, meno male che c'è la Gazzetta che questo, ci tiene in piedi. Per questo ti dico, cioè, è un miracolo, perché ieri, cioè, quando la notizia si è diffusa al Sole, dove ecco, puoi immaginare, ecco, si vive nel terrore da questo punto ma di vista. Ma però è una bella dimostrazione che si può rimettere in carreggiata, esatto, un'azienda editoriale con attenzione, imprenditorialità pragmatica e ovviamente ponendo fine a tutti i capannelli della politica. Sì, naturalmente io dicevo a tutti i colleghi, però ci vuole niente di meno che il satanasso Cairo, hai capito? Perché invece se uno filtra il processo decisionale e l'energia, soprattutto di un disegno organizzativo importante per fare revenue e entrate, perché altrimenti solo a tagliare io ci credo poco che la cosa funzioni. Comunque, detto tutto questo, ti assicuro, ieri la notizia era... Vedi, vedi che le cose si mettono per il meglio. C'è anche la primavera adesso. Io trovo che le notizie di ieri sono belle perché finalmente pongono c'è fine... C'è anche Ferrero che alle... compra... Hai visto? Compra Fannie Mae in Fannie America. Mae, che io la prima volta l'ho letto male, ho detto, ma Fannie Mae tra l'immobiliare... Siamo un po' deviati dal 2008, cari ascoltatore, perché come sapete Fannie Mae è stata una delle due, no, centrali, per così dire, in cui la politica aveva immaginato come strumento da sempre, pure decennali, per il sostegno alla politica della casa facile con la finanza per tutti, e fu uno dei motivi dell'esplosione poi del 2008. Quando ho letto che Ferrero comprava Fannie Mae, invece no, era May come maggio, per così dire. Però anche quella è un'ottima notizia, caro Alberto. Sì, sì, perché il processo di internazionalizzazione di Ferrero è stato spesso accidentato, ha sempre basato tutto su un po' su un modello di export, portando all'estero i prodotti nati in Italia. Qui finalmente ci articoliamo un pochino come modello organizzativo. Ferrero è una grande azienda, dobbiamo vedere alla prova questa seconda generazione, insomma, dobbiamo vedere se se la cava e se il management che Michele, glorioso Michele Ferrero, ha lasciato, in eredità, se la caverà. Io rimango anche qui molto ottimista, conoscendo un pochino i meccanismi dell'azienda. Io spero che i figli non dimenticano mai le volte che il padre li ha un po' riallineati, quando erano un po', per così dire, proclivi a dar retta a alcuni consiglieri finanziari. Però questo, il tempo, sai, passa lasciando i suoi sedimenti positivi, quindi io sono convinto che la lezione sia servita. Il padre mi colpì moltissimo in due passaggi storici, nel dire ai figli: guardate, io sono vecchio ma non sono ancora rincoglionito, quindi questa cosa che mi avete proposto non mi convince. Mentre magari tu eri dei favorevole. No, no, è semplicemente, diciamo, era un passaggio, parliamo della mancata, diciamo, acquisizione di un grande gruppo inglese che era finito sul mercato, era probabilmente, non era pronta l'azienda, non c'erano ancora i meccanismi organizzativi necessari per inglobare con intelligenza un gruppo così grande. Qui stiamo parlando di una posizione piccola, di una cosa digeribilissima, di uno sbarco sul mercato fondamentale, di un riposizionamento anche distributivo, e devo dire che quei piccoli passi, secondo me Ferrero mi sta rassicurando sulla capacità di imparare, sul fatto che siamo capaci di fare prodotti, non c'è dubbio, sul fatto che siamo capaci di fare processi produttivi ottimi, anche se con qualche piccola ombra, come abbiamo visto ultimamente con il caso dell'olio di palma, che è più ideologico che industriale. E devo dire che se imparano a fare finanza industriale ben fatta, è un bel segnale che l'azienda e l'Italia tutto sommato possono farcela. Traffico. Conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua, Mario. Allora, da cosa cominciamo questa settimana? Ma sai che non c'è moltissimo di macro, a dire il vero. Dobbiamo cercare di trovare qualcosa di sfizioso. Per esempio, potremmo parlare della Fed, esatto, che alla fine, nel bene e nel male, tende a condizionare, diciamo, tutto quello che cade su di noi, diciamo, in maniera diretta o indiretta. Allora, diciamo questo, il meeting della Fed è stato abbastanza una sorpresa e un sollievo per i mercati, nel senso che diciamo c'era questa attesa che potessero esserci 4 rialzi dei tassi anziché 3. Infatti c'è stata una robusta risalita dei rendimenti sul dollaro, ma che si era portata dietro ad esempio anche l'euro, perché sta cominciando a serpeggiare anche in eurozona l'idea che non solo si va a ridurre il quantitative easing, che potrebbe all'inizio del 2018 finire, e quindi auguri all'Italia, ma si potrebbe addirittura in corso d'anno arrivare a alzare progressivamente il tasso sui depositi liberi presso la BCE, che oggi è meno 0,40%, e potrebbe magari da qui a qualche settimana diventare meno 0,30, meno 0,20, eccetera, eccetera. Per cui questa è una cosa abbastanza così da tenere monitorata. Il discorso principale è che i membri della Fed sostanzialmente non vedono un inasprimento, una certa aggressività della risalita dei tassi in corso d'anno. E questo si vede nel cosiddetto dot plot, che sarebbe praticamente il grafico, per non usare troppi tecnicismi, con il quale i membri della Fed tentano di prevedere che cosa succede in corso d'anno e da qui ai prossimi anni. Allora, il dot plot è rimasto completamente immutato, e quindi la stessa Yellen, nella conferenza stampa successiva al meeting della Fed, ha detto che ci vuole cautela. Quindi l'idea dei mercati è che gli aumenti saranno comunque molto ben telefonati, molto dipenderà poi chiaramente dalla grande incognita Trump, perché noi dovremmo anche riuscire tra un po' a parlare di Trump e di quello che sta facendo o non sta facendo, care belve, nel senso che il signor Trump sta facendo un casino terrificante, però come risultati e come iniziative è completamente fermo. Magari questa cosa dovremmo anche suggerirla a tutti quei politici di casa nostra che sono corsi a definirsi trumpisti e che hanno perso l'ennesima occasione per non coprirsi di ridicolo. Nel senso che Trump non sta facendo niente, o meglio, stanno già panicando per quanto riguarda la riforma sanitaria, perché abolire l'Obamacare finirà molto male. Come avete visto, ci sono stime che a 10 anni ben 24 milioni di americani torneranno non assicurati. Il budget, il progetto di budget da parte di Trump stesso, che è stato definito smilzo, è giustamente smilzo perché contiene un accidente di nulla. Quindi il nostro eroe al momento sta baloccandosi, accusando a destra e a manca il mondo di spiarlo, no? Cioè, è riuscito anche a prendersela con i britannici, però sul piano domestico non sta facendo assolutamente nulla. Ora, noi sappiamo che di solito quando l'economia viene lasciata libera di farsi gli affari propri, magari è meglio, no? Rispetto che, soprattutto, questo è un concetto che sappiamo bene noi italiani. La grande ragione del traino sul mercato finanziario americano di Trump è fondamentalmente quello che hai appena detto. Beh, oltre alle promesse però di abbattimento fiscale sulle imprese, che secondo me farà il bilancio, insomma, le scelte del bilancio l'hanno presentato, un bilancio che fa scelte nette, sicurezza e difesa rispetto ad ambiente, eccetera. Però ecco, al di là di questo, perché ce ne dovremo sicuramente occupare, è vero quello che dici tu, cioè Trump, come si vede anche nelle cose della rivoluzione commerciale, bilaterale e così via, un conto è la mitologia ripetuta, altro conto poi è quello che fa in concreto. Però scusate, vogliamo dire invece che un politico che fa una scelta chiara, discutibilissima e personalmente poco convincente, ma chiara, cioè io faccio investimenti in tecnologia, sicurezza, difesa, dove sono leader mondiale, e non invece proseguo in quella politica un po' buonista alla Obama, che invece ha caratterizzato gli ultimi 10 anni della cultura americana. Diciamo discutibilissimo e magari anche sbagliato, ma almeno chiaro. Non, non so se sia sbagliato, però è una scelta secca, a differenza del, quindi perché del fatto che le scelte, perché le politiche di bilancio in Europa, che sono di totale continuismo da una parte e dall'altra. In Italia poi sono totalmente analoghe, quando tecnici, sì, destra o sinistra. Sì, ma scusate, cioè, voglio dire, va bene, scelta secca, Obama era uno smidollato secondo qualcuno, secondo me tutt'altro. Secondo me tutt'altro, la storia dimostrerà che Obama è stato un grande presidente, questo mi sento di dirlo, sulla di mantenere estera, la posizione. Sulla politica estera, guarda. Sulla politica estera, no, Mario, ma sì, sulla politica siamo estera all'opposto veniva. Come opinione. Certo, sulla politica estera è un disastro. Io rispetto la tua opinione, ma la mia è opposta. Oscar, certamente, però ricordiamoci che nella fase iniziale della presidenza doveva curare le profonde ferite dell'overstretch di Bush. Nella fase successiva, probabilmente con questa idea che il paese non era pronto per imbarcarsi in nuove avventure militari o quant'altro, ha prevalso una certa indeterminatezza. Ci ho detto, diciamo. Vediamo come Trump, con il suo stato maggiore e con il suo ministro degli esteri, che mi pare, come dire, già abbastanza nei guai con il fatto che il budget del Dipartimento di Stato verrà massacrato, riusciranno a gestire le interazioni, ad esempio, con la Cina. Quella è la vera domanda, sono d'accordo. Se poi consideri, visto che stiamo parlando, no, che il patriottico Trump poi si scopre in settimana che il suo genero Kushner ha in ballo un deal da 400 milioni di dollari con una entità statale cinese, la mia domanda è una sola: di che stiamo parlando? Cioè, quest'uomo non è l'epitome del conflitto di interessi, di più, è un OGM di conflitto di interessi, di più, e peraltro non ha la più pallida idea di come impostare delle riforme profonde come quella sanitaria. Questa esplosione di spesa per la difesa, vedremo come verrà gestita. Nel frattempo va a massacrare, ad esempio, la EPA, l'Environmental Protection Agency, che tra l'altro a me viene da sorridere, l'ho segnalato anche in settimana, perché in Italia noi avevamo letto poco tempo addietro un'intervista di, udite udite, Michele Emiliano, dove Emiliano lodava Trump come esempio di politico che ascolta il popolo. Sto per darti l'ennesima, e per dare a tutti gli ascoltatori l'ennesima misura di come A, i nostri politici siano irrimediabilmente provinciali, B, non capiscano una cippa di quello che succede loro intorno. Per cui l'evisceratore della EPA, Donald Trump, piace al notriv Michele Emiliano. E auguri a tutti. Del resto, scusate, caro Alberto, ma le nomine vi stanno convincendo, le nomine che girano? Il criterio delle nomine alle grandi partecipate pubbliche. Mi spiegate perché Alessandro Profumo improvvisamente diventa un esperto di tecnologie di difesa e sicurezza militare? Tu che dici, Mario? Siccome dovrò finanziare di più la difesa, mi sembra che Alessandro abbia accesso ai canali giusti. Non so cosa vuoi che dica. È ovvio che preferirei una bella annuncio sull'Economist dicendo presentasi candidature per agenzie statali o per aziende complesse da gestire, e facciamo un bel curriculum con una bella audizione. Dopodiché, insomma, visto che questo non avviene, non è mai avvenuto in sto paese qua, buona fortuna, nominiamo gli amici, i clientes. Poi nel caso specifico, diciamo, ci sono almeno due aziende che mi stanno a cuore, o sicuramente Leonardo Finmeccanica e poi Poste Italiane. Poste Italiane, l'idea per cui Renzi non sopporta Cairo è che gli ha fatto obiezione, quando ha detto tu mi quoti subito, mi dai subito una quota, dice no, io devo vedere, perché c'è un trasferimento di sussidi all'interno tra attività di servizio universale all'altra, attenzione a non incorrere in problemi, che se lo facciamo senza capire meglio cosa si può fare sulle attività finanziarie eccetera eccetera, e questa è un'obiezione. La seconda obiezione è perché non ha preso Pioneer, mica lo decideva lui, ha partecipato a una gara, se ha vinto, ma sai, nella testa di Renzi evidentemente le gare sono forma, non sono sostanza. Invece fammi difendere quello che ha fatto Francesco Caio, perché nei limiti di un'azienda che ha mille vincoli statali, secondo me ha gestito l'azienda al meglio delle possibilità, quindi sostituirlo francamente non ha base industriale. Io da analista dico perché, però Mario magari non è d'accordo. Sento che Mario dice mamma. Ma no, io non è che non sono d'accordo, come ho avuto modo di scrivere. Allora, intanto, tanto di cappello alla storia manageriale di Francesco Caio, che non sarò io a mettere in discussione, anche perché non ne ho gli strumenti e non ne ho la capacità. Ma però per come è stato massacrato il servizio di recapito, no? Per come è stato segmentato con un marketing assurdo, anche lo stesso sistema di recapito rapido, le raccomandate, no? Cioè la raccomandata di base alla fine te la portano in 4-6 giorni lavorativi, grazie, rispetto al resto d'Europa, complimenti vivissimi. Poi se vuoi far arrivare tutto entro 24 ore ti costa quanto un diadema di Bulgari. Cioè, perché non ci confrontiamo con l'estero? Poi l'esplosione degli utili, dei ricavi, eccetera, Carlo Alberto, tu sai molto meglio di me, che deriva dal fatto che stanno pesando come dei fabbri sul risparmio gestito. Esatto, esatto. Quindi questa è l'area invece che di cavi a redditività, cioè non è merito di Caio in quanto tale, riuscivo anch'io a tirare sugli utili e la redditività se andavo a puntare sul risparmio gestito con la rete capillare di Sportelli che ha quella realtà. Quindi io non sono così, come dire, un fan dell'esperienza di Francesco Caio, che però ha avuto innumerevoli vincoli operativi e politici, e infatti vediamo il risultato. Poi, volendo dire veramente pochi secondi su Alessandro Profumo, Alessandro Profumo a Leonardo Finmeccanica, io sinceramente, ripeto, non ci capisco una fava, però mi sfugge qualcosa. E comunque ho come l'impressione che in questo paese ci sia una short list di fenomeni polivalenti con queste porte girevole che entrano, escono, entrano, escono. Non so, cioè questo mi lascia veramente perplesso. Torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamo della belva. Eccoci qui tornati in studio, oltre allo scaggianino che vi saluto e vi ringrazio. Ciao Roberto Carnevale Baffè. È collegato Mario, il nostro durissimo oggi da trampa. Spigolosissimo! Spigolosissimo Mario, cioè proprio No, vabbè, visto che qualcuno mi accusa che mi sto, come dire, rammollendo, no, eccetera eccetera. Chi osa pensare a tutto? Proprio reputazione, non è? Bravo. Non mi sono ancora imborghesito negli ozi domestici, diciamo. Mamma mia, tanto. Va di retro. Secondo me giudichi un po' troppo postere al servizio universale, che è un'attività, bisogna rassegnarsi, cioè c'hai qualche iniezione, c'è socialdemocrazia ti sei fatto questa settimana, perché è un'attività residua, tutte le vecchie poste, la verità è che altrove, vedi Olanda e Germania hanno fatto scelte di diventare chi un grande gruppo logistico, noi invece continuiamo a credere che le poste siano il servizio universale, non è così, perché per quello i privati funzionano meglio, perché non devono, non hanno gli oneri di rete universali, hanno un'organizzazione che serve a rispondere a punto punto nel più bravo oggi di tempo possibile e col miglior servizio. Ma detto questo, andiamo alla faccenda centrale nell'agenda politica economica di questa settimana. Come sapete, il grande Franco Battiato ancora una volta ci illustra luminosamente la sintesi dell'altezza della politica italiana. Sul ponte sventa la bandiera bianca. E così alla fine il governo Gentiloni ha fissato il referendum per il 28 e contemporaneamente poche ore dopo. Io più che bandiera bianca parlare di balena bianca, se non ti dispiace, perché secondo me è una grande operazione di intelligenza ha detto in realtà la CGIL ha ragione e quindi il referendum non si tiene, perché noi recepiamo l'abrogazione totale dei voucher. D'altro quesito lasciamolo ai tecnici, perché insomma, la responsabilità solidale nei lavori di appalto e subappalto era tanto per averne tre invece che due di quesiti. Naturalmente la CGIL mi direbbe di no, ma insomma il quesito del treno popolare era stato cassato dalla Corte Costituzionale l'11 gennaio. Tutti hanno immaginato, beh, basterà una modifica di qualche eccesso, dati alla mano, che si vedeva nei tante volte citato studio di Anastasia Garibaldi dell'INPS, c'era qualche punto interrogativo su quell'oltre 30% di utilizzo di voucher in attività di impresa, diciamo che a occhio non sembra riconducibile a quella del lavoro accessorio, ma la stragrande maggioranza invece sembrava, almeno a me, coerente al lavoro accessorio, di cui la più alta percentuale di utilizzo nel turismo, nel commercio, nei servizi alla persona, interventi di piccola manutenzione nella casa o dei giardini, eccetera eccetera. Invece no, ha vinto l'impostazione che l'ha definito uno degli strumenti della schiavitù, della precarizzazione. In parole povere, il governo si è cagato sotto perché il PD all'esplosione della leadership renziana è spaccato su tutto. È bastato 24 ore di confronto in Parlamento per capire che la gara era praticamente all'annullamento dello strumento, perché si sommavano posizioni di limiti su limiti su limiti, solo alle famiglie, no, solo alle famiglie che hanno un figlio almeno con la mano sinistra, no, solo tanto valeva. Il governo ha detto aboliamolo e basta. Resta il segno politico di questa decisione, per me debolezza assoluta del governo Gentiloni. Auguri per il DEF, auguri per la legge di stabilità. Con questo criterio, come si vede, Renzi da fuori gli smonta le proposte fiscali che escono. Siamo a leggere grandi novità tipo aumentano le accise sui carburanti. Di nuovo auguri per le scelte da fare. Ricordo a tutti che la prossima legge di stabilità c'ha 20 miliardi di clausole di stabilità belle come piombo nelle ali e un punto di PIL di deficit in meno. Voglio vedere come ci arriviamo a fare queste scelte, come si vede anche nella lista delle nomine. Ma mi interessa, ci interessa invece il confronto con il nocciolo politico della vicenda dei voucher, e quindi abbiamo fatto ricorso a chiamare Marta Fana, che ha un PhD a Sciences Po a Parigi e che è un'animatrice del pensiero dati alla mano, come piace a noi, ma con idee dichiarate diverse dalle nostre, sui temi del mercato del lavoro, dell'economia e dello sviluppo. Allora Marta, grazie di essere con noi innanzitutto. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Di la verità, hai riso come una matta alla bandiera bianca del governo. Un po' sì, poi in realtà io non canto vittoria, perché finché non ci sarà una legge, finché appunto non smettano anche di pensare di poter reistituire uno strumento simile ai voucher, perché poi quella è l'intenzione dei prossimi. Oh, brava mesi. Marta, brava, ma vedo che ci siamo. La battaglia non è minimamente finita, anzi è iniziata, ed è iniziata soprattutto su un altro punto, che non è soltanto la questione interna alla maggioranza o al PD e il suo confronto con la CGIL, ma credo che quello che è il dato negato, no? Un po', lo si vede anche da Renzi a Lingotto, è quel risultato eclatante del 4 dicembre, quindi la paura incredibile di una politicizzazione poi dei lavoratori, indipendentemente dalla CGIL, perché diciamocela, nella campagna elettorale ce l'ha cominciata Poletti il 5 dicembre, quando di fatto ha detto adesso dobbiamo sventare la possibilità di una mobilitazione sul lavoro e quindi dei referendum abrogativi per quanto riguarda il lavoro accessorio, voucher. Però detto così, però Marta, ecco, lo ammetti che del voucher non ci occupiamo di quello che sappiamo dei numeri, ma c'è una grande questione politica che ha a che vedere con la leadership della sinistra, questo. Che invece, scusami, non è un tema che volevamo confrontare con te, perché noi volevamo tornare sul tema del voucher. Non è vero, io volevo confrontarmi. Tu volevi litigare di politica. Non fare il cattivone. No, invece invitiamo Marta, trattiamola bene. No, io la tratto benissimo. Sì, no, io condivido, cioè a me la maggioranza del governo del PD interessa per il dato politico dei lavoratori, una loro possibile politicizzazione, finalmente, forse, anche nel XXI secolo. Quindi c'è un dato politico, adesso possiamo parlare anche dei voucher. Brava, parliamo di voucher, non ti faccio fare la Rosa Luxemburg via radio, perché... Senti Marta, lo denunciamo, ma questo come si permette? A parte che, insomma, immagino che non è che ti abbia offeso la Rosa Luxemburg. Proprio di no. Attenzione, quello si vuole far fare la fine di Rosa Luxemburg. Non so se è chiaro. quello io vorrei evitare che accadesse. Va bene. Allora, dicevamo, il governo ha fatto un'operazione, secondo me, di grande trasformismo democristiano, dicendo: ah, c'è un problema, giriamoci intorno, ovviamente, non essendo in grado politicamente di affrontarlo. Ha aperto. Sì. Guarda che quello di cui stai parlando in questo modo è quello che piace a te di solito. No, appunto, stavo dicendo i complimenti a Paolo Gentiloni, perché secondo me ha fatto una cosa intelligente, pragmatica, intelligente. Il democristiano, va bene, d'accordo. Non è democristiano, ma diciamo è post-democristiano. E quindi parliamo di quello che succede dopo, perché c'abbiamo un problema. Io dico che la piattaforma legislativa e tecnologica su cui erano costruiti i voucher italiani era ottocentesca, prevedeva sostanzialmente un modello poco controllabile, poco rendicontabile. Invece, da studiosi e analisti, abbiamo bisogno di dati in modo tale che finisca questa pantomima del volumi della Io capisco che vuoi dare retta ai Gentiloni, ma tu sto parlando con uno che conosce come funziona il contratto interinale, il contratto intermittente, chiamata. Hai presente che cos'è il decreto, l'ultima modifica del contratto intermittenza, che peraltro è un contratto che nasce su tipologie demenzialmente antiche? Per capirci, le 50 tipologie di lavoro a cui si può applicare il contratto a intermittenza, che ha degli oneri amministrativi e anche degli oneri economici molto elevati, sono definite da un regio decreto del 1923. Che ti sto dicendo? Del de, de, del 1923 ed è un contratto nel quale, questo io capisco che la CGIL, che ha una certa visione del lavoro, dice voglio tendere alla convergenza di ogni forma lavoro a tempo, per quanto accessorio e minimale sia, ma A contrattualizzata e B con una forma di contributiva più elevata. Così non era per i voucher rispetto ai 33 punti di aliquota contributiva tra azienda e lavoratore. Però voglio dire, detto questo, per l'intermittenza devi pagare l'indennità anche se non lo chiami al lavoratore, cioè capisci? Infatti per questo veniva fuori il nero, perché non funzionava, perché è antieconomico. Però fammi fare un passo precedente, però è un tema di processi e di trasparenza. Tu critichi il fatto che si poteva attivare, ma il bonus in confronto a quei contratti lì è la frontiera tecnologica. No, però Marta è in Francia, c'è da anni un metodo essenzialmente per le famiglie e per gli enti non profit totalmente online, in cui però stiamo parlando di un contratto, di una cosa trasparente, misurabile e controllabile, che è il primo elemento prima ancora di giudicare. Almeno raccogliamo i numeri, sentiamo cosa dice Marta. Sta a Parigi. Sì, io in realtà rispetto al modello francese pongo un'altra grande differenza, che è poi la differenza che c'è tra lavoro occasionale e accessorio, quindi l'occasionalità che è venuta meno con la legge Cormier, ovvero in Francia il voucherista francese, tra virgolette, è un lavoratore subordinato e pertanto all'interno di quel contratto, con le sedie telematiche, eccetera. 4 settimane massimo al mese non rinnovabile, ha un portato di diritti totale, quindi la contribuzione piena, le ferie, la malattia, la maternità e tutto appunto quello che anche la CGIL di fatto chiede, sì, rimettiamo i voucher però in una forma subordinata e con il pieno dei diritti, soprattutto quello che non dice ancora la CGIL è aumentiamo i contributi previdenziali, perché sennò ha voglia poi a dirci che le pensioni e l'INPS non è sostenibile, eccetera. Dall'altro lato però effettivamente il modello francese rimane occasionale, perché in quello schema lì effettivamente non si possono fare, ogni lavoratore di fatto non può utilizzarlo per più di un mese l'anno. E questo sempre nell'ottica del lavoro subordinato, del dire se io ho bisogno della cosa, delle pulizie, delle ripetizioni per tutto il semestre, quella persona lì sarà le mie dipendenze, perché io decido a che ora viene, quanto sta, cosa deve fare. E questo è lo schema, e secondo me anche dal punto di vista teorico ancora la grande differenza tra Italia e Francia, dove in Italia ce la siamo mangiate appunto, no, con tutto il lavoro autonomo, dopo pro, intermittente, cioè la chiamata, eccetera. Sì. Però la domanda, io mi pongo la domanda, ripeto, io lo dico sempre, io ho totale trasparenza, perché come al solito dice no, quello difende, io per esempio le persone che cooperano con tenere in piedi la mia complicata famiglia, quando ci ponemmo il problema con la mia compagna voucher, io ho escluso, ho detto no, perché il nostro sarà un tentativo, avremo bisogno continuativo, così si fanno contratti. Quindi io, come vedi Marta, non sono il voucherista spregiudicato, però per come sappiamo la realtà italiana, è vero o è falso secondo te che in settori come il commercio, faccio un discorso separato per l'agricoltura, perché per l'agricoltura bisogna distinguere lavoro stagionale, esatto, la raccolta dell'uva, ma dura poche settimane, altrimenti è un eccesso anche lì, su quello sono d'accordo anch'io, ma in settori come il commercio, i lavori a casa, eccetera, secondo te non c'è il problema aggiuntivo dell'enorme nero? Prima c'era questo enorme nero, l'abbiamo intaccato, non è che l'abbiamo sconfitto. Allora, però dai dati, INPS non l'abbiamo sconfitto minimamente. Io non sono d'accordo. Dimmi perché. Ah, perché lo dicono i dati, cioè non c'è emersione del lavoro nero lì in quei settori. Cioè l'aumento esplosivo dell'utilizzo dei voucher nei settori caratterizzati da più lavoro nero non si accompagna da una riduzione di lavoro nero stimata dall'Istat negli stessi settori o anche in termini territoriali, cioè, ce lo dice quel rapporto. Ora io ho dei dati su cui sto lavorando sui voucher, dico, e ne riparleremo, spero di infatti, presto, infatti perché abbiamo bisogno di dati aggiuntivi, perché quelli sono dati vecchi, ma esatto. se oltre il 50% del totale utilizzo, quindi sto parlando di dati Anastasia Garibaldi 2015 eccetera eccetera, sono sommati tra pensionati, disoccupati e doppio lavoristi di un piccolo di una prima retribuzione, comunque tempo parziale, niente che sommata persino all'utilizzo medio dei voucher, comunque non superiore ai 5.000 euro annui, quindi lontani dal tetto alzato a 7.000 da Renzi eccetera eccetera, se la somma di più del 50% ricade esattamente in quella tipologia del lavoro nero diffuso per questi tipi di impieghi, io non lo so, però no, allora su questo i dati sono chiari, anche quelli di Anastasia, per quanto aggregati e sintetici, ovvero quello che loro dicono è soprattutto chi di fatto ha le indennità, cioè le disoccupazioni, il nero lì sopra aumenta, perché quello che si fa, si utilizza il voucher per un'ora, quindi una dichiarazione in termini di margine estensivo della regolarità del rapporto di lavoro extra, che a questo punto verso i disoccupati, quelli in cassa integrazione, e poi tutte le altre ore vengono in nero. Di conseguenza. Ma tu hai visto con i controlli digitali, con la tracciabilità, quanti, in pochissimi mesi, centinaia e centinaia, o quasi 300 sono stati i casi, proprio esattamente, andando a vedere... 300 su 30 milioni di voucher venduti. In pochi mesi, no, però. Però ci sono 30 milioni, l'ho letto il rapporto sulla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, noi abbiamo negli ultimi 3 mesi, quindi da ottobre, esatto, circa 30 milioni di voucher utilizzati, sì, ne sono stati dichiarati soltanto 2 milioni, e allo stesso tempo però sappiamo che già, cioè, c'è un controllo soltanto per circa il 6% delle aziende che le utilizzano, e là dentro ci sono 1600 lavoratori che superano la soglia quantitativa e che quindi potrebbero anche richiedere la conversione a tempo indeterminato. Ho capito, esatto. Però dall'altro ce ne sono altri, potenziamo mille volte la tracciabilità, perché altrimenti comunque l'abbiamo abbandonata immediatamente da questo punto di vista. Un minuto del traffico, torniamo. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci tornati, titolo a Messaggero, spuntano i mini jobs e il lavoro a chiamata, e questo mi pare che sia quello, il messaggio che Gentiloni, l'amico di Mario, che dici? No, anch'io leggo stamattina sulla rassegna stampa che il messaggio è appunto mini jobs e una riscrittura del lavoro a chiamata. Intanto diciamo subito che per questa legislatura è ridicolo pensare che potrà accadere qualcosa, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda, perché cioè veramente questa calata di vaghe, poi bisognerebbe anche parlare dell'intervento sulla solidarietà nel sistema di appalti, no? Perché anche quello rischia di avere delle ricadute abbastanza pesanti per disinnescare il referendum. Però ricordiamoci che in Germania i mini jobs in quanto tali godono di un pesantissimo sussidio pubblico, perché pagano un IRPEF al 2% e contributi al 3,7%. Tutta la differenza la mette la fiscalità generale. Quindi sono d'accordo con il principio che sostiene Marta, cioè di dare più diritti e più tutele anche agli ex voucheristi, però anche qui bisognerà capire dove andare a recuperare le risorse, perché non possiamo pensare... complicato, perché secondo me Marta ha posto il problema politico, questo è il vero problema, io sono d'accordo con lei, cioè si è riaperta la questione a sinistra, rispetto a questo e all'eredità di Renzi, il problema è il popolo di sinistra, i lavoratori e la rappresentanza, questo è, non giriamoci intorno e non prendiamo il filo solo sulle questioni tecniche. Grazie a Marta Fana, dopo Giornale Radio noi torniamo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Ed eccoci tornati in studio, 11:07 minuti 26 secondi, cari compari conti della belva, io ci stiamo tirando le carte qua in studio con Carlo Alberto. Tiravo dietro un pazzetto di bike. Cari ascoltatori, è vero, è il segno del fatto che oramai Oscar Giannino alza la bandiera bianca anche lui, e io mi trovo con un studio qua, Carlo Alberto, che vuole contrattualizzare le tate accessorie occasionali. Certo. Vuole fare il contratto a Palazzo Chigi con la Camusso per quello, io non so più niente cosa capita. Mario Seminelli mi critica le poste perché non fanno la consegna universale finita. No! Hanno ragione loro. Io, bandiera bianca. Sentiamo qualche ascoltatore, Gentiloni, che abbiamo tanta gente che ci chiama. Oscar, dai. Allora, cominciamo con Domenico da Milano. Domenico. Sì, buongiorno, buongiorno. Intanto volevo fare i complimenti per onestà intellettuale del signor Giannino, che sento spesso la mattina andando in ufficio. Ecco, la mia osservazione era con preoccupazione, perché io non sono capitalista né per convinzione né per appartenenza, capitalista liberista, però osservo una demagogia totale della sinistra. Cioè, dovrebbero leggersi La città del sole di Tommaso Campanella. Pretende troppo. No, ma perché anche dire, qui Viale Monterosa, forse è il caso che si leggano La città del sole. Va bene, va bene. Dai, non interrompiamo. Io mi chiedo veramente. Allora, il mio caso, la mia fattispecie, io utilizzerei una donna delle pulizie due volte alla settimana. Al mese di luglio e di agosto non ci sono. Assumendola, perché l'ho chiesto chiaramente in maniera con un nuovo contratto, dovrei, non potendo far fare chiaramente 2 mesi di ferie, dovrei assumerla, licenziarla, pagare 250-280 euro al commercialista o al sindacato per tenere la retribuzione. Ora mi chiedo veramente, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, il concetto è buttare via l'acqua sporca col bambino. Ma non solo su questo, sento anche la mattina tante volte, tantissime. Cioè, demagogia, si sta parlando di demagogia. Cioè, quindi, che soluzione c'è per chi vuole utilizzare 2 volte alla settimana una donna delle pulizie e vuole avere 2-3 mesi, diciamo, di non utilizzo? Allora, io condivido la sua obiezione, tra l'altro, poiché la maggior parte, chi non era per l'abrogazione totale, però la maggior parte anche di quelli più duri voleva tenerlo per le famiglie, così buttano anche, oltre ai difetti a giudizio loro, anche la facoltà per le famiglie e se ne fregano, di fronte a un punto che è quello su cui abbiamo discusso con Marta Fan, cioè... Quanto contributo a capire, a dimensionare, a tentare di incidere il lavoro nero hanno dato i voucher? Come si è visto, non ci hanno dato la possibilità di fare il dibattito, perché la paura politica dovuta alle divisioni, ripeto, tutta all'interno del PD questa questione, ha prevalso. Io ricordo a tutti che i voucher entrano nella nostra legislazione con il 2003 la legge Biagi, non vengono applicati perché sospetti proprio per questo. In buona sostanza si inizia ad applicarli quando nel 2008 è Damiano, quindi un pezzo della sinistra, che dice ma no, applichiamoli per esempio ai lavori stagionali agricoli. Dopodiché di intervento in intervento i voucher vengono estesi e con Letta, il Fornero e Letta che cade ogni vincolo e si possono applicare a tutti. Ma cosa voglio dire? Tutto lo sviluppo dei voucher è tutto interno alla storia della sinistra e del PD. Ora si comportano come se fossero venuti dalle lune di Giove imposte dalle armate spaziali della destra imperialista. Per me questo significa non avere più una cultura di governo, perché i riformisti, visto che l'hanno fatti loro all'interno del PD, l'evoluzione della pace, devono battersi. Se scompaiono vuol dire che è puro opportunismo, tanto introdurlo un voucher quanto levarlo è puro essere cagasotti, avere le bandiere al vento, farsi i conti, ma chi è in vantaggio per vincere? Cazzo, ho perso il referendum, non ne voglio perdere un altro. Ma è il merito delle cose, conta qualche cavolo di cosa o no? E la risposta è no, no, no, ecco, no, no, no. E poi dicono che bisogna andare dietro al loro dibattito. Io capisco, caro Alberto, Marta e chi la pensa come lei, loro hanno un altro modello di riferimento. Per noi potrà essere non condivisibile, per me non lo è, però sono meno opportunisti di questi qua. Non pensate, Mario, tu non la pensi così? Sì, sì, ma è stata una, come dire, un teatrino miserrimo e miserando e miserevole quello che è stato fatto, proprio per la serie farsela sotto per questo referendum e quindi alzare bandiera bianca, meglio nera, perché sarà il trionfo del nero. Che non è che fosse stato sconfitto, no, con i voucher, per carità, è stato per carità, forse nella migliore delle ipotesi scalfito, forse intaccato, hai ragione, però diciamo rinunciare all'idea riformare è ridicolo, però fa parte della cultura cosiddetta politica di questo paese ed è l'ennesimo segno dello spappolamento in atto della cultura politica di questo paese. È un po' io la penso così. Io penso che sarà l'occasione per riscriverli meglio questi modelli di organizzativi. Io penso che invece il lavoro debba essere un contratto, anche se semplicissimo, certamente non centralizzato sotto la Camusso, anzi debba essere un contratto digitale, perché deve costituire anche una singola ora un elemento di curriculum e di creazione di competenze. Mentre così stavamo reificando l'ora di lavoro, francamente ragazzi, che voi difendiate quel modello organizzativo, su tutti i vincoli siamo d'accordo, per carità. No, a me non piaceva però dall'inizio quella cosa. Carlo Alberto, no, ma se fosse la realtà italiana è quella che dici tu, ma certo che sarai mille volte d'accordo. Se potessi vedere a portata di mano il fatto che c'è una gestione digitale e non sottoposta a contrattazioni centralizzate e periferiche per ogni singola virgola, bensì un modernissimo strumento che è insieme di controllo e di garanzia. Bravo, di che cos'è di entrambe le parti, esatto. In modo tale che ma sia un impegno reciproco. Ragione, però Carlo Alberto, non possiamo, ma certo che poi, non dobbiamo Oscar, dobbiamo basta fare queste battaglie, dobbiamo fare cose giuste per i nostri figli. Scusami se difendo il mio punto di vista, no, ma a me di tenere la roba bene, vecchia bene, certamente non sto dando ragione a CGIL, allora, però dico, se Gentiloni non ha, fammi dire, la forza politica per farlo, mi auguro che ce l'abbia la prossima legislatura, però è giusto fare le cose fatte bene. Intanto però l'abolizione non va nella direzione che dici tu, va nella parte di dover contrattare con la camusse. Vero, anche infatti il io faccio l'ottimista, oggi gli dico bene, abbiamo pure ripulito il tavolo, ripartiamo da zero. Come sempre, cari ascoltatori, vi offriamo posizioni diverse anche tra noi, e questa è la bellezza di questa trasmissione. Claudio da Pescara, che invece mi pare di capire, mi dicono, dice no, un momento, esistono altri contratti a differenza del voucher per questo utilizzo dichiarato del voucher, forse non troppo trasparente, la pensa così? Pronto? Sì. Sì, buongiorno Giannino. Sì. Senta, io l'ho ascoltata anche ieri, l'ho anche twittata. Cioè, io questo volevo dire, esistono forme contrattuali diverse dal voucher, sì, che sono equivalenti al voucher, tipo io conosco persone che, di cui non voglio nominare chiaramente sia loro che il datore di lavoro, perché certo, anzi loro ringraziano il datore di lavoro che permette a loro di lavorare anche con questa forma contrattuale, ma con 4 ore a settimana di tempo indeterminato si lavora 50 ore a settimana. Questo glielo dico perché ci so, se uno vuole, non c'è. Allora, prima cosa, Gentiloni ha detto che vuole modificarlo in 3 mesi, quindi non è detto che lo vuole abolire e basta. E questa è già una grande cosa, che io tra l'altro non voto PD, però io devo dire la verità, ha fatto una grande cosa questa che lui ha fatto. Politica, ma la politica serve, la politica quando è utilizzata bene serve, perché non è che sia tutta tecnica né tutta politica. Quando le cose vengono fatte in maniera adeguata, allora lui si è preso una responsabilità e ha detto anche che in 3 mesi lo vuole modificare. Io sono, le posso assicurare, un esperto, ho lavorato con i voucher, ho lavorato con altre forme contrattuali e ringrazio sempre chi mi ha fatto lavorare, perché sono stato in difficoltà, quindi lo ringrazio comunque. Certo. Ma questo che le voglio dire, la battaglia sui voucher non è solo sui voucher, cioè, scusi, ma anche su altre forme di contratto. No, ma io, però guardi Claudio, mi ha sentito che ho dato ragione sia all'inizio che alla fine con Marta Fana, che diceva c'è un problema generale qua di rappresentanza del lavoro. Cioè, io su questo la seguo, non è su quello il mio dissenso. Io non credo molto probabile, ma in questo ha anche ragione lei. Vediamo i fatti sul fatto che reinterverranno in 3 mesi. Vediamo i fatti. No, grazie di questa duplice segnale che ci ha mandato di concretezza. Maria Teresa da Milano. Maria Teresa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, niente, volevo soltanto raccontare la mia esperienza nella quale ho utilizzato i voucher alcuni anni fa. In particolare avevo una badante che seguiva mia suocera con una demenza molto avanzata. E come in tutti i contratti ci sono i periodi, diciamo, le ore di pausa nel pomeriggio, certo, le 2 ore pomeridiane, diciamo, cercavo delle persone e non sempre le trovavo, e comunque più persone. Quindi io nell'arco dei 7-8 anni in cui ho avuto bisogno della, diciamo, persona a tempo pieno con mia suocera, ho avuto la necessità di avere più persone che ogni tanto venivano. Allora io dico, adesso che cosa si fa? Si ritorna, secondo me, come prima, nel senso che uno prende una ragazza, le dà i 20 euro per le 2 ore in cui sta lì a studiare mentre la persona anziana dorme, e perché è impossibile pensare di dover assumere 15-20 persone che vengano magari 2 ore il sabato piuttosto che il martedì. Maria Teresa, era sintetizzata la stessa esperienza, cioè la preferenza per i voucher anche di chi fa un'offerta di lavoro per i servizi alla persona che non è quella prevalente nella sua attività, che quella o è contrattualizzata, in moltissimi casi è contrattualizzata ormai, altre volte è totalmente in nero, ma per chi lo fa in termini accessori, come dice lei testimoniava la sua difficoltà, non è che posso mettere in piedi contratti per una 20 di persone, con quelli a intermittenza dovrebbe pagare l'indennità di mancata chiamata a ciascuno, tra l'altro, che per quanto bassa, è una cosa però totalmente fuori dalla stessa idea di che cos'è una flessibilità elevata di lavoro accessorio, da una parte e dall'altra. Ma quando io dicevo a Carlo Alberto prima, guarda che anche dal punto di vista di chi, non di me che domando quel lavoro, ma chi lo offre, anche loro preferiscono non avere vincoli. Lui diceva, non va bene, perché se tu non hai vincoli e poi non ho la garanzia che esatto. da mio padre o da mio nonno ci sia qualcuno. Signori, il sinallagma va costruito esatto. in maniera simmetrica e responsabile. Se non costruiamo le basi di una civiltà in cui gli impegni si prendono e si rispettano, e il voucher, scusate, era l'inno all'opportunismo bilaterale però. In cui il lavoro era reificato, fammi fare una cosa marxista, e niente, oggi vince la bandiera rossa. Invece, a me sta bene che un lavoro che invece sia apprendimento, impegno complessivo e collettivo, e anche tracciato, dove la tracciabilità non serve solo all'INPS, serve anche a costruire un curriculum. Va bene ragazzi, ascoltatori, la prossima settimana questi due miei compari mi parleranno della necessità di andare a Pescara, e a quel punto io sarò finito. Ero a Pescara l'altro ieri, ci sta, ero solo. Allora torniamo dopo l'ennesimo traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta in questa rivoluzione d'inverno che è in atto con i reparti all'assalto di Mario Seminerio e Carlo Alberto Canale Maffè contro, io ormai nella povera parte di un Romanov alle ultime, così. E del resto la storia torna al contrario, io liberista faccio la parte e loro invece le forze della storia sono la parte giovane. No, era solo per inscenare un po' di confronto tra punti di vista. Però, come vedete, cari ascoltatori, sui voucher, oltre alla questione del merito e la discutibilità, agli occhi miei di Mario, molto forte, del criterio seguito dal governo, dalla cultura politica che sparisce, dal minimo di coerenza a PD, tutte scelte che hanno fatto loro, c'è questa grande questione, da una parte posta da Marta, cioè la sinistra, il lavoro, eccetera, che è la grande questione storica, inutile dire di no, e che il PD ha tentato in questi anni di aggirare con il renzismo, per essere chiari. Dall'altra, Carlo Alberto, che però dice no, qui c'è una prospettiva di società che si costruisce con la contrattualizzazione al di fuori del vecchio rito, ma con la nuova forma tecnologica di certezza, trasparenza e addirittura costruzione di curricula certificati in quanto tale, che sono valore aggiunto per tutti. Ma li facciamo, chiamano proprio open badges, e si danno anche per un piccolo, esatto. piccolo, e servono proprio per l'employability. Quindi ecco, guardate quante cose non avete visto a proposito del voucher. Cioè, esatto. Perché ve l'hanno ridotta solo a evitiamo un referendum. Invece dietro, come sempre, quando ci sono queste questioni, ci sono visioni generali, c'è la consapevolezza o meno di avere strumenti oggi di governo, ma di efficientamento sociale, la tecnologia appunto applicata su scala di massa. E invece la questione è no, non abbiamo paura di andare alle urne. Vabbè. Allora andiamo a un'altra questione, cioè... Settimana di fronte a richieste di parti lese nei confronti di Beppe Grillo.it esce una nota degli avvocati e dice chiaramente che Beppe Grillo non è gestore, non è responsabile di nulla, non si riconduce a lui la sua attività del sito, eccetera, eccetera, eccetera. Parte una grande questione. Non ci interessa qui il dibattito politico su Grillo o meno. La questione è, come al solito, un pezzo del grande ragionamento. Ma queste informazioni in rete, si può capire se ha delle regole? A, B, se queste regole sono efficaci? C, è Grillo e i suoi avvocati che ci urlano il manico? Oppure, invece... e chi obietta e chiede norme con controlli pervasivi eccetera eccetera ad avere in mente un modello del tutto sbagliato. Per esempio l'avvocato, una delle degli avvocati che fanno molto discutere, perché da anni ha accumulato molta esperienza in materia di norme sulla comunicazione e le informazioni, Caterina Malavenda rilascia un'intervista in cui dice: Grillo ha ragione, Grillo ha perfettamente ragione. Quindi quando dice il blog, io sono responsabile solo dei post firmati, per tutto quello che per il resto io non sono responsabile di nulla, perché ricade sull'autore, ha ragione, dice Caterina Malavenda. È così? Non è così? Tentiamo di capirlo. Abbiamo invitato una persona che non solo per la competenza è un giurista che si occupa con studi esattamente di questa materia, ma anche perché è una persona equilibrata quando si tratta di comunicazione politica. E quindi abbiamo chiamato il professor Giulio Enea Vigevani e lo ringrazio di essere con noi. Buon sabato. Buon sabato anche a voi. Allora, buongiorno. Che impressione ha avuto lei dalla nota degli avvocati? Ci urlavano nel manico? A, B, è la dimostrazione che le norme sono tutte da cambiare e abbiamo bisogno di autorità che intervengono pesantemente? Oppure semplicemente c'è chi fa confusione da una parte e dall'altra, perché delle norme ci sono, sono precise, perché la rete non è il giornale stampato, e però c'è un interesse di più parti a eluderle queste norme? Lei come la pensa? Allora, beh, prima di tutto, per il poco che conosco del caso concreto, l'impressione che ci sia, che siano un po' gli avvocati che cercano di nascondersi dietro il gioco delle tre carte c'è. Però questo in sé non vuol dire che occorra una nuova normativa di quelle basate sul modello della carta stampata, per cui tutto è facile, tutto si riconduca alla responsabilità di uno pseudo direttore del sito, che è questo un modello che qualcuno reclama. Allora, velocissimamente, esistono delle regole. La regola fondamentale della rete è molto semplice: chi scrive è responsabile, e chi scrive deve farlo in modo trasparente, perché non esiste nel nostro ordinamento il diritto all'anonimato. Questo è il primo punto, deve farlo a volto scoperto. Lo dice la Costituzione in un passaggio poco noto dell'articolo 21, che dice che il sequestro è possibile se si violano le norme sull'indicazione dei responsabili. Questa è la logica. Ci deve essere un responsabile. Il responsabile è in primis chi scrive. Questo è il punto fondamentale. Ma la questione è: se su un blog, su un sito, si pubblica il commento, perché a quel punto il gestore non li discrimina i commenti, ma si pubblicano i commenti di chi non si firma, a quel punto la parte che si ritiene lesa a chi si rivolge per ottenere cosa? Perché il gestore dice da una parte, al di là che Beppe Grillo dice il gestore non sono io, ma comunque il gestore, nel caso del sito Beppe Grillo, dice noi non filtriamo, quindi rispondiamo solo di chi ha firmato, come giustamente dice anche il professor Vigevani. Ma la questione è: io parte lesa a quel punto, che era questo il caso del sito del Grillo, a chi mi rivolgo per quel sito per ottenere che siano firmati? E ne risponde anche chi ha scritto. Ma se non sono firmati, a maggior ragione, venga rimosso ciò che considero lesivo? Ecco, questa è la domanda. Allora, prima di tutto, siccome qui siamo di fronte a un ipotetico reato di diffamazione, come in tutti i reati c'è qualcuno che ha il compito di andare a vedere chi l'ha commesso. Questo è il pubblico ministero, la polizia. E quindi io faccio una bella querela, la polizia fa le indagini come in tutti i reati, e grazie alla rete, grazie alle caratteristiche della rete, può facilmente scoprire l'autore del reato. Lo può fare. Secondo aspetto, la giurisprudenza, che non è all'anno zero, ma ce ne sono già stati molti di casi europei e italiani, europei intendo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha già detto in tante occasioni che il gestore del blog, è vero che in linea di principio non risponde, ma può rispondere quando i contenuti sono palesemente illeciti. Secondo, se non rimuove tempestivamente di fronte alla richiesta dell'autore, o della polizia, oppure se in qualche modo abbia concorso nella realizzazione. Un sito tipo quello di Grillo, che non è un sito in cui uno può buttare dentro la roba a caso, ma che è un sito politico e quindi i contenuti sono evidentemente filtrati secondo quantomeno un consenso a quanto viene inserito. Sì, ha sicuramente qualcuno che approva quel determinato post, e quel soggetto facilmente, ad esempio, le forze dell'ordine nelle indagini possono ben individuarlo. Però ancora una volta è caso per caso, non c'è la regola generale che risponde sempre o non risponde mai. Ma per essere concreti, per capire ancora meglio, se da parte di chi filtri la pubblicazione di un post, la responsabilità per l'eventuale commissione del reato dalla parte che si ritiene lesa segnala all'autorità e l'autorità interviene, la responsabilità, professor Vigevani, scatta per il fatto che io non ho esercitato il filtro? Cioè, perché su questo io ho molti dubbi, esperienza, scatta. Io non mi metto in condizioni di poter verificare le ipotesi di reato di qualunque, di chiunque commenti le cose sul mio blog, oppure scatta l'ipotesi di corresponsabilità nel caso in cui parte lesa, richiesta autorità, autorità di rimozione non viene assecondata, e a quel punto scatta l'ipotesi, perché una volta sollecitato o da una parte o dall'autorità pubblica a considerare che quel post ha elementi di possibile reato, non lo levo. Quando scatta questa ipotesi? Secondo in questo secondo caso scatta sicuramente, non scatta, non c'è nessun automatismo, cioè non scatta se per il solo fatto che sia stato messo sul mio blog. In taluni casi scatta anche prima, cioè può essere ritenuto un soggetto responsabile, ad esempio di fronte a un post anonimo, se in questo caso può presumere che egli si sia assunto la responsabilità per quei contenuti. Ad esempio, io metto un post anonimo in grande evidenza sul mio sito, che è un sito politico, è del tutto evidente che in quel caso una qualche corresponsabilità. Infatti sono stati ad esempio casi di condanna per reato di diffamazione in concorso con anonimi. Però non è come il direttore del giornale che risponde semplicemente, esatto, per non aver controllato, no, io ma per aver fatto qualcosa. Ma e allora, però, mi perdoni, come mai le proposte di legge che si accumulano oggi nelle caselle dei parlamentari parlano addirittura di autorità che devono esercitare questo controllo su tutte le autorità pubbliche? Io quando leggo dico, ma sanno di cosa parlano? No, secondo me non sempre. Cioè, ad esempio, l'ultima proposta di legge che riguardava più il fenomeno cosiddetto dei fake news, ma che comunque inseriva delle responsabilità per omesso controllo in rete, sostanzialmente una proposta di legge che non sta in terra, anche degli aspetti di incostituzionalità abbastanza palesi. Sono, secondo me, in molti casi sono proprio un po' risposte di pancia a notizie che girano sui giornali, che descrivono un mondo drammatico in cui la rete è una sorta di prateria in mano ai più violenti, che non è così. Cioè, la rete è regolata attraverso delle sue norme, che sono norme che non possono essere identiche a quelle della stampa, che nascono in un altro contesto completamente, ma ragionevolmente, con un po' di, anche con qualche sola evoluzione giurisprudenziale, ad esempio in materia di anonimato, per punire più severamente chi pubblica post anonimi senza dare poi l'indicazione di chi è l'autore, secondo me si può benissimo evitare tutta questa legislazione pericolosa nel complesso. Allora, a mio avviso. Anche a mio avviso, i liberali riprendono il campo per qualche minuto di questa trasmissione ormai attaccata dalle truppe socialiste e comuniste, però con l'avvocato Giulianeo Vigevani abbiamo tentato di darvi un'opinione, oltretutto, come detto, equilibrata, quindi non si tratta di dire Grillo Musk. Cioè, è un po' stiracchiata la tesi degli avvocati, però il fondamento ce l'ha. Ma soprattutto non è vero che bisogna omologare alle testate giornalistiche di carta stampata alla rete. Non è possibile ed è ingiusto. Attenzione, che chi dichiara di lottare contro le fake news spesso ha in mente modelli autoritari. Torniamo tra un minuto, grazie professor Vigevani. Conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta nel tentativo mal certo di verificare se fino alle 12 rimango in controllo della trasmissione, visto l'attacco portatomi oggi da Carlo Alberto e Mario Seminario. Comunque abbiamo deciso, cari ascoltatori, faremo puntate tematiche. Una di queste sarà gloriosamente dedicata ovviamente alla rivoluzione sovietica del 1917, quindi ci sembra giusto. Ma lo facciamo sul serio, certo, perché ci sono ascoltatori che ce l'hanno chiesta. Assolutamente. La puntata commemorativa del glorioso centenario della rivoluzione russa. E mi chiede Luca Paesetti di fare anche il commissario del popolo, volentieri, non mica mi tiro indietro. No, ma se gli date la rivoluzione digitale lui diventa comunista, lo fa subito, caro Alberto. Beh, ma è un po' cioè, attenzione, non devo ricordarti io che la tecnologia può diventare uno strumento terrificante. Non deve, sempre delle mani degli uomini. Ho detto può. E oltretutto faremo anche uno per le tesi di Lutero. Eh sì, E riprendiamola in mano la questione degli grande dibattito, Max Weber e così via, degli effetti tra la rivoluzione protestante, l'economia, l'infingardaggine della convergenza dei partiti italiani in questa melassa. La vendita delle indulgenze politiche. E però ultima risposta agli ascoltatori che dicono: no, non parlate però di Grillo, Grillo. No, noi abbiamo parlato della questione del sito, no, non di Grillo sì, Grillo no. Non di Grillo sì, Grillo no. Tanto meno degli interventi di Genova e così via. Io avrei voluto parlare. Mi ha molto colpito anch'io. Se non viene smentita. Oh, c'è Mario, ci sei. Lo so, perché, non facciamo scomuniche politiche. Però mi ha molto colpito oggi. Cazzo, devo rimanere in controllo della situazione. Ecco, Di Battista, che è su Repubblica, pagina 13, non so se l'ha già smentita. Però i virgolettati, non ci metto più la faccia di Battista su quello che è avvenuto a Genova da parte di Grillo, lo sapete, mi hanno un po' colpito. Ma scusa Oscar, quindi Movimento 5 Scientology che cosa fa? Si scioglie, si riforma, che succede? No, perché mi interessa sta cosa. Vedremo, lo seguiremo con la stessa frequenza con cui qui seguiamo la pressione del tempo e il traffico, quindi sarà una frequenza altissima. Ma ragazzi, qui tentiamo di rimanere un po' su l'economia e non su chi mi taccio. All'Italia, ragazzi, 2 miliardi e mezzo persi dal 2009, l'arrivo di Etihad del 2014 non funziona, per quel tipo di flotta non si può fare il grande riorientamento verso il segmento di margine, cioè quello del lungo e lunghissimo raggio. Misure, lacrime e sangue, tanto per cambiarci, 2037 esuberi, tagli di retribuzione per i piloti per anzianità che vanno dal 20 al 25%, per personale di volo fino al 32%, tagli di revenues in 3 anni di costi di 1 miliardo, io non li credo molto facilmente ottenibili, anzi ho fortissimi dubbi, ho già sentito su questo in settimana altre persone che seguono il bilancio italiano e dicono ma sono fuori dalla portata, tagli di quello e aumenti del revenues del 30%, e anche quelli molti hanno sospetti che si possano davvero conseguire. Il piano ha un no dei sindacati e si va agli scioperi. Senza il sì dei sindacati, chi ci deve mettere i soldi a conciliare le banche italiane non ce li mette. Quindi attenzione, perché il rischio, tra virgolette, di andare ai liberi tribunali esiste, perché io non capisco perché Unicredit e Intesa dovrebbero continuare a finanziare questa cosa. Intesa ci ha già buttato un pacco di quattrini. Allora, per tentare di capire se dagli elementi noti fino a questo momento di questo piano siamo noi a essere troppo pessimisti o invece gli sviluppi in atto sul mercato europeo e mondiale dicono che forse ci si può provare e magari essere anche più ottimisti questa volta dopo lunghissimi fallimenti sia pubblici che privati, abbiamo chiamato il professor Ugo Arrigo, che insegna scienza di finanza e finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano e si occupa da molto tempo di problemi anche di economia del traffico. Grazie di essere con noi, buon sabato professor Arrigo. Buongiorno a tutti. Che effetto le ha fatto in questi 2 giorni apprendere ciò che ho tentato di sintetizzare del piano? Insomma, che siamo ritornati al punto di partenza. Questa è una cosa tipicamente italiana, non si risolve mai nulla e si fa un giro attorno all'isolato, poi si ritorna al problema come stava esattamente prima. Pensate che io mi sono occupato per la prima volta di Alitalia, io mi sono occupato in genere occupandomi di finanza pubblica, di imprese pubbliche che diciamo cagionavano molti esborsi alla finanza pubblica. Casualmente Ugo, succede solo molto raramente questo, sai. Le poste, le ferrovie, il trasporto locale, insomma, di Alitalia me ne sono occupato per ultimo perché gli altri casi forse erano anche più gravi. Me ne sono occupato però nel 2004 su richiesta della Presidenza del Consiglio di allora, della Segreteria Tecnica, del Sottosegretario della Presidenza, del Dipartimento della Presidenza, e fece un'analisi, era la prima volta in cui mi occupavo di trasporto aereo, insomma sul serio, con i numeri, e già allora scoprì una cosa che era molto interessante, che l'Italia aveva problemi di costi, questo più o meno, insomma, diciamo, le perdite, pubblico, gli sprechi della vecchia Alitalia pubblica erano noti, insomma, si sapevano, ma il grosso del problema erano i ricavi. Già. E quindi già allora i costi in quanto tali rispetto agli altri concorrenti che erano ai tempi vettori di bandiera, questi costi non erano poi così esorbitanti, non erano così poi, diciamo, anomali, non erano eccessivamente elevati, ma già allora l'Italia aveva incapacità di riempire abbastanza gli aerei e di ottenere dei ricavi che fossero sufficienti poi all'equilibrio economico, eccetera, eccetera. Poi però nel 2008 è arrivata CAI e CAI anche lì si sono concentrati sul taglio dei posti e tra l'altro ridimensionando l'azienda. Poi nel 2015 è arrivata Etihad, ancora taglio dei costi, ancora ridimensionamento dell'azienda. Però insomma un mio studente di microeconomia che mi dicesse che bisogna tagliare i costi totali, gli direi che si sta sbagliando, che bisogna tagliare i costi unitari. E quindi quelli che contano sono i costi per volo tipo, i costi per posto a sedere disponibile per un passeggero. Poi chi se ne importa dei costi totali? I costi totali possono anche aumentare. In questi anni i costi totali di Ryanair sono aumentati moltissimo. Il problema è che sono aumentati molto di meno dei ricavi. E quindi siamo alle solite, insomma, non ne veniamo fuori, ma diciamo questo piano mi sembra abbastanza fantasioso. Sì, io devo dire che oramai, stante il limite di flotta e stante i limiti che i costi fissi hanno dalla revenues ricanabili per quel tipo di flotta a fronte del consolidamento in atto, esatto, cioè del settore, io non credo che valga la pena di perseguirlo questo piano. Sono radicalmente, lo so, mi hanno già chiamato dall'Italia per dire con che, come ti permetti. Lo dico col più pieno rispetto perché si trova a dover gestire questo guaio, il più pieno rispetto, ma avete migliorato il loss factor, l'avete portato in molte tratte oltre quello dei vostri concorrenti. Quando il professor Gallo sul bilancio 2015 dice quando anche l'aveste portato a superare il 120% sareste con il culo per terra, ha ragione, numeri alla mano, purtroppo ha ragione. E quindi la questione dei limiti che la flotta pone al tipo di revenues aggiuntive è una equazione che non si risolve esclusivamente dal punto di vista dei costi, perché altrimenti dovreste immaginare anche qui sul bilancio 2015 di dover abbattere la componente aggredibile dei costi fissi per il 90% e questa roba in un'azienda non si può fare. Sono questioni elementari, lo so, nella stampa non c'è scritto, cari amici di Alitalia che mi avete telefonato, la stampa pubblica all'inizio, nei primi giorni, quello che dite voi come ovvio, però chi segue da anni i bilanci non ci si ritrova in queste numere qua, non ci si ritrova. Il consulente dice il contrario, è ovvio, ma quante volte l'abbiamo già visto, caro Alberto? No, posso dire una cosa che sta sopra il business plan, che si chiama governance e proprietà. Posso dire che finché non si mette in discussione il modello, fatemi dire, protezionistico che ha vincolato il trasporto aereo in questi anni, distorcendolo profondamente, questa azienda non si può salvare. Cosa intendi? Intendo dire che l'Europa e l'Italia dovrebbero unilateralmente, fregandosene altamente agli accordi bilaterali, rimuovere il vincolo del 49%. Un'azienda come l'Italia che finisse in mano a un grande gruppo verrebbe ristrutturata. Del 49% del limite di proprietà, di controllo, sennò, da parte di assetti extraeuropei. Cosa vuol dire assetti extraeuropei? Perché se compriamo una produttura di borse, lo spiego a chi è a casa che non lo sa. No, scusami, hai ragione, scusami. Noi abbiamo un vincolo importante, storico, ecco, determinato da protezionismi incrociati che dicono: mi raccomando, il trasporto aereo è strategico con 2G e quindi non possiamo permettere che gli stranieri, in questo caso extraeuropei, investano nelle linee aeree. A me sembra un principio medievale, protezionismo, che sta impedendo, guarda caso, una strategia di organizzazione sia sul medio che sul lungo raggio, che invece potrebbe avere senso, ma con una flotta diversa, un modello organizzativo diverso e con diciamo logiche diverse. Finché ci ancoriamo al nostro protezionismo, saremo sempre qui a dire cosa fa Etihad e cosa fa CAI. Cosa pensa Ugo di questo. Perché in sintesi noi abbiamo obbligato le banche italiane a esercitare un controllo che è finto, però per non perdere i diritti europei, che significa perdere altri soldi per loro con tutti quelli che ci hanno già buttato, perché da parte mia sono proprio matti che i soci consentono di buttare i soldi così a banche così importanti, da una parte, e dall'altra abbiamo impedito a Etihad a fare un discorso più razionale della loro presenza in Europa con Air Berlin e l'Italia. Quindi i limiti, il significato di questa norma a tutela dell'Europa, che in realtà è un autogol clamoroso, Rigo, qual è? Ma no, poi tra l'altro è una finzione, perché comunque c'è un controllo di fatto di Etihad. Quindi già, diciamo, domani mattina, anzi già da due anni a questa parte, la Commissione europea poteva svegliarsi e dire: ma attenzione, Etihad è al 49%, ma di fatto nomina l'amministratore delegato, decide le strategie, eccetera, eccetera. C'è un controllo di fatto, quindi noi togliamo la licenza di vettore europea dall'Italia, perché non è sufficiente, cioè non è necessario avere più del 50% per un controllo effettivo, ma basta anche esercitarlo al di sotto di questa soglia. il vincolo è assolutamente anacronistico e non c'è nessuna valenza strategica nel fatto che l'azionista di una compagnia europea sia europeo. Benissimo. E quindi, vogliamo dire che se rimuovessimo quel vincolo, scusami Ugo, non è vero che probabilmente il perimetro organizzativo su cui spalmare sarebbe perché non si converge, non c'è break even su questa situazione. Ma io non sono così pessimista come voi, ci si potrebbe provare, nel senso che ovviamente la flotta è quella lì, quindi se non si fanno grossi investimenti per cambiarla... Ma i soci attuali devono solo fare investimenti a copertura di perdite, altri 2,5 miliardi, cioè capisci che cosa chiedi a Banca Intesa, di continuare a buttare miliardi, perché stiamo parlando di quelli, cioè i nomi sono quelli là, non è che improvvisamente... Purtroppo, gli errori grossi sono stati fatti dall'Italia statale, dai governi negli anni 90. Quindi se toglievano 5 miliardi di euro alle ferrovie e li davano dall'Italia per comprarsi aerei a lungo raggio, oggi non sarebbe mai questa situazione. Lo so. Però posso dire una cosa, di Mario, Oscar? Di Mario. Anche soprattutto a Ugo, che è sicuramente indiscusso esperto. Io mi chiedo, Etihad è arrivata già da qualche anno. Ora, capisco l'esigenza di Carlo Alberto di togliere questo vincolo protezionistico del vettore controllato da un operatore comunitario, però che ha fatto Etihad sul piano degli investimenti, visto che lo stesso Ugo 3 anni fa diceva giustamente conta solo potenziare il lungo raggio, è lì che si fanno gli utili, che ha fatto Etihad in questi 3 anni per potenziare il lungo raggio? Beh, ha fatto meno di quello che voleva fare, da quello che sappiamo, avendo seguito le carte interne. Perché? Perché? È perché il problema è che se fai solo il fideraggio verso la sua grande base internazionale, la compagnia dice, beh, ci perdo un po' perché io ho anche il problema di un fideraggio da fare per fare traffico verso cioè gli fare altri, il traffico non aereo, sì, quello ho capito, terrestre. Fatemi finire però, perché il traffico ogni 10 minuti sta diventando... Allora, su questo è la tua osservazione, ha una risposta che ha a che vedere con la tutela che ha chiesto l'Italia per sé. Questo è il problema. Esatto. Perché ci sono anche pressioni, poi, tanto per essere chiari, che si esercitano sui soci, perché questo significa più o meno flussi su questo o quello scalo, tra i più rilevanti della compagnia. Di riordinamento degli aeroporti. Quindi è una questione complessa. Secondo me abbiamo perso entrambi, sia la parte finta di controllo italiano, sia la parte penalizzata di controllo di Etihad nel governo della società fino a questo momento. Ricordatevi che Fiumicino nel 2015 ha detto non mi fido più di Alitalia e apro di fondo alle low cost, e il gestore Fiumicino secondo me ha fatto benissimo, perché il suo mestiere è tutelare le sue revenues, non fare il gioco delle compagnie. Ecco, queste sono solo alcune questioni di fondo di un problema che secondo me rimarrà aperto per la prima volta per un bel po'. Torniamo tra poco. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qua, tornati, ed è tornato con noi, ci sei mancato tantissimo, Renato Cifarelli, dove sei, cosa fai? Buongiorno. Sempre in azienda a fare i palanchi, vai in Turchia a fare le mostre, le fiere da quei cattivoni dei turchi, che questa settimana ne hanno dette veramente di robe, a me fanno... I turchi sono bravissimi, scusami. Sono bravissimi, turco è discutibile, ho studenti fantastici dalla Turchia. Ma io non sto mica giudicando i turchi, in quanto ci mancherebbe, il governo a me fa venire i brividi e di peggio. Renato, allora sento Carlo Alberto particolarmente polemico oggi. No, non Oscar. È polemico, ma ogni cosa che tu dici lui ti dà contro. E oggi ha detto che Gentiloni ha ragione, che l'abrogazione dei voucher è stato fondamentale, che bisogna contrattualizzare, anche se qualcuno per strada gli chiedo di darmi una mano per lasciarmi la scarpa, bisogna fare un contratto. Ha detto delle cose. Ragazzi, ha vinto il premio Nobel per la teoria dei contratti, mi fai difendere un pochino la disciplina. Mario ha detto ovviamente sul welfare americano eccetera. Insomma, Renato, c'è poco da fare, si va alla redazione, ma è come giusto, nella nostra famiglia, come tutte le famiglie, si discute, ci si divide, ci si confronta, il bello è questo qua. Certo. Ma tu invece che ci dici? No, oggi mi avete tolto un po' di argomenti, perché siete intervenuti un po' su tutti gli argomenti della settimana. Io invece volevo parlare di una cosa che ha accennato prima Carlo Alberto e che e mi che ha colpito cos'è? Stamattina. Che cos'è? Perché stamattina ho letto, leggendo il giornale, ho letto l'intervista di Renzo Rosso, sì, che praticamente dice: torno alla diesel, comando io, faccio fuori un po' di gente, eccetera, eccetera. E contemporaneamente Carlo Alberto diceva stamattina del miracolo, chiamiamolo così, di RCS, dove Urbano Cairo è riuscito in un anno, è tornato all'utile, ma con, a migliorare con i conti, fatturato che scende, eccetera. Quindi, allora, volevo, visto che tra l'altro l'ho anche attaccata recentemente, difendere un po' la mia categoria, quella degli imprenditori, e dire che evidentemente l'imprenditore che guida le aziende a volte fa meglio dei manager. Adesso forse diciamo che la nostra radio non è proprio il posto giusto in questo periodo. E io infatti ho sentito che noi siamo rimasti muti, ma ti abbiamo mesmericamente trasmesso dal cervello l'idea: attento a cosa dici, più o meno, ecco. Ecco, no, conscio di camminare su terreno scivoloso. Esatto. Un imprenditore, non una confederazione di imprenditori, quello che stai dicendo, però, giusto però, per capire. No, ma io ti fermo qua. Ogni tanto l'occhio dell'imprenditore ci vuole direttamente in azienda. Poi no, ci allora, sono, ecco, no, ti fermo. Poi ce ne sono alcuni di esempi. Questa impresa dimostra che l'azionista non ha fatto il suo dovere. Questo lo firmo io, però la responsabilità è mia, non vostra, perché io, se mi mandano via, voglio che voi continuate su Radio 24 come tutti gli ascoltatori. E appuntamento come Alessandro Milan lunedì alle 8:20, attenti alle 2.